alle 10, c'è qualcuno in ascolto per un controllo? E cosa vuoi? Dimmi cosa vuoi. Ma sempre tu mi sei natalino. No, perché volevo qualcuno che fosse più lontano. Che fosse? Minchia, secondo me adesso ho guadagnato qualcosa. A me mi segna a fondo scala, aspetta che faccio una cosa. Sto proprio con l'altro apparecchio a vedere. Prova a vedere. Sto 2-3 prova. 9-10. Mi stai arrivando con l'altro. Capito? Questo è più avaro. L'altro mi segna più secondo scala perché è a LED. Un attimo Natali che faccio una cosa. Ehi, scappa. Oh Natali, prova a vedere adesso. Dai. Hola, hola, hola, hola. È sempre così, stai arrivando. Ma forse perché siamo troppo vicini, capito? Bisognerebbe... Hola. La matta che ti ne varia, gas. E cos'è, Ante? Pumpendi gioco. No, un po' poca. Un po' meglio. Va bene, dai, continua a fare quello che stava facendo. Cazzo, vuole una baraonda di gallino, no? Adesso dovrebbe andare un po' meglio, dai. A me segna sempre la solita cosa. E ho attaccato un bambinetto, attaccato, mi mando da buccio. Cazzo, adesso l'antenna è bella alta, eh. Oh, yeah. Ma dovresti arrivare bene da tutte le parti, Antu. Beh, 9:20, sono così, sono forte da tutte le parti, sono. Ok. Dai Natali, cazzo, mia baraonda, porca droia, trabano, gozzi, mamma mia! Via da te che rubo i vai, io non posso fare niente. Io ho bisogno di mia macchina per andare a tirare con un amico che mi stava accompagnando, mi è uscita anche lì. Ma dimmi tu. Tutto tu posso fare, sì. Ehi, non lo dia faura, no, Antu. Sono messo male veramente. Adesso speriamo che i miei piedi non in fretta per questa colicisti. Poi dopo un mese già mi fanno l'irmi, ha detto il chirurgo. A Romanco mi negavo da me. Quello che sto passando io manco ai cani. Pure diabetico sono diventato, perché la pancreatite mi ha scatenato il diabete. E ti capisco, Natali. Ma Romanco arretti! Quello, occhio al perizoma. Quello già è a posto la situazione. Mi pare che andrà pure più bene di prima. Solo che sono messo male nell'altro senso, cavolo. Ma speriamo di farcela in fretta. Sono vivo per miracolo. Dai Natali, siamo i gianni, dai. E infatti, di ora a volte. Dai, devo scendere un attimino giù, perché devo fare roba. Ce la risentiamo, Natali, mi ha fatto un grande piacere sentirti. Sono contento. Cazzo, sempre indaffarato. Cazzo, viaro. Vabbè, questo lavoro lo devo fare perché non mi andava così, troppo bassa e secondo me non pompava. Adesso dovrebbe andare un po' meglio, dovrebbe andare, dai. E anche perché potresti disturbare con l'antenna bassa. Io è perché ce l'ho bassa che disturbo. Però non ho modo di... capire avanti. Oia. Scorsi non ne posso fare di nessun genere adesso, ma dimmi tu. Vabbè dai, fai quello che devi fare, anche a me mi ha fatto piacere sentirti, dai. Ci sentiamo alle prossime. Al limite ci sentiamo di là, perché qua non è che posso parlare. Scappa, dai, dopo faccio una prova con una persona, vedo come gli arrivo. Adesso scendo giù e faccio quello che devo fare. Ok Natali, stammi bene. E altrettanto, ciao Antuccia. E qua, Fufia! E chi è? E beh, Fufi! Non l'hai, Fufi! E beh, Antu, mi ascolti, sì, sono basso, sì! Aspetta che te ne pare, a fondo scala, in hobby! Buongiorno, buona domenica, eh! La domenica! comunica anche a te. Ma che sei, Franco? Manuele, Manuele, so, della Terocia, tu. Oh, ciao Manuele, mamma mia, sai cosa è? Che ho salito l'antenna e quindi non riesco a capire bene. Mi hai domandato l'amicizia su Facebook con me. E Gando? Salì. Ma non ho visto l'amicizia io, no, non mi avrei fatto nessuna notifica. Ho sbagliato io, non lo so. Con la L incomincia il tuo cognome. Sì, è la cucina di tua madre, mia madre. E già lo so, c'avevi un fratello, sapete. Cosa? Già lo sai che sei cuocuomane già. Sì, è vero, cari. Anche le cuocuomane, eh. Oh, yeah, fini minnida. Oh, yeah. Ciao, Manuel. Mi dovete scusare, ma non è che posso parlare qua, da. Era per salutarvi. Ma ancora in santella vai. E allora? Devo subire un po' di interventi, figurati se posso fare sforzi o non posso fare nulla, no Manuel. Mi è capitato di tutti i rigurori. Ma anche io sono così, io ho fatto la visita, ho fatto la risonanza e tutto quanto, sto facendo tuttora le cure, sto volando così. E non so per il camionetto che non è operabile. Cazzo, devo usare sempre con questi dolori. Io non le comprendo. Oh, yeah, finissimela. Prima ho avuto questo cavolo di pancreatite. Quella lì mi ha scatenato il diabete. Anche diabetico sono diventato. Ma ti immagini cosa vuol dire? L'incazzadura. Poi c'ho la colicisti da togliere. Perché sono sempre a mal di pancia, sono qua. Crepato sono. In più, sedendo in macchina con un amico, senza fare nessuno sforzo, mi si dà l'ischemia, Gesù Cristo mio. Già lo so, già lo so, lo sto passando anche io questi dolori qua. Io ho l'ernia del disco, in pratica dal bacino, dall'ombo proprio, e mi bruciano tutte e due le gambe. Quando faccio una camminata a piedi, una camminata dentro i bassi, e mi devo subito sedere perché mi fanno male. E i dolori alle gambe ce li ho pure io. Oh, yeah. Come faccio una camminata un po' lunga, mi vengono questi dolori, mi bruciano le gambe, è un casotto. L'altro giorno stavo andando svelto per prendere il tram e ti sono dicendo che i dolori attaccano a venire i dolori qua, non mi occupo di capire per la vergogna. Lo so, io lo stesso sono così, e mi ha detto che non è operabile. Grimo, era un grimo. Mi ha visitato l'ortopedico. Poi sono andato ad Alghero, perché il gruppo non riusciva a rintracciarlo mai. Sono andato alla Riera, gli ho detto, guarda, io non sto bene, non mi visitate, perché io non sto bene. Ma lì di dov'è? Di Sardegna, come mai è venuto qua? Perché siete più bravi, l'ha giurito al dottor Coso, Fui, se mi pare, che è un chirurgo, che aveva messo delle protesi anche a Mocconiato, ed è bravissimo, infatti mi fa, aspetta un attimo e poi vediamo. Mi ha visitato, dopo quanto mi ha prescritto queste pastiglie qua, in caso che non ti passano queste da operare. Infatti sì, mi calmano un po' i dolori e tutto quanto, però non fa nulla, si può dire, perché il dolore ti viene intorno dopo l'effetto, quando va via l'effetto della medicina. Come ti arrivo più forte lì alla Terolcia? Sinceramente andò prima eri 9, 8, adesso mi arrivi 9-10, ma cosa hai fatto? Ho salito di più l'antenna. Ma sempre la bazooka? No, non è bazooka, no, c'ho la ringo, c'ho. Certo, l'ho avuta anche io la ringo. Ancora le stanno facendo quelle antenne lì. Come la boomerang, quella grande, è la migliore che c'è nella piazza. Come la boomerang, la grande, è la migliore che c'è nella piazza. quella della LEM. Cavolo, tutti quelli che l'hanno presa sono soddisfattissimi. Ma la pomera, quella con radiale stai dicendo? Che c'è un radiale? Sì, sì, sì, quella grande sto parlando, Quella grande, sì, quanto sarà? 1,50 m di stilo. Così prendi, 3 metri alta. Cosa manna l'hai fatta? La grande sì, la mini è più piccola. La grande è alta 3 metri, ma la bomba mi, cazzo è poco bomba. Ma cosa è? Non è una 58 però, No, non è una 58. Buongiorno, buongiorno. Tutto liscio sì. Perché? Ma hai tirato su l'antenna? Sì, sì, ho tirato su l'antenna. Di quanto? Ciao Manuel, ciao Natale, di quanto? Un metro. Un metro? Sì, sì, com'è? Hai aumentato leggermente, 2 tacchettine sei salito su, ottimo, ottimo. Adesso lo proviamo a segnale normale, perché adesso sono un po' gareddo. Vabbè, la verità è, la verità mi dà anche meno fastidio, mi dà l'apparecchiatura. Ok, aspetta che provo a mettere normale. Ciao caro, comunque, buona domenica. Buongiorno, buongiorno a tutti e due, ho detto, buona domenica anche a voi. Cos'è? Fisendi te ne sei? Fisendi, dopo rientrendi, quando io ho pagato 3 caffè, faccio mezzogiorno e mezza, vado a vedermi la partita, e poi me ne rientro a pranzo alle 2. Allora, prova a vedere, adesso sono, come si dice, sono normale. Rimettila com'era, Anton, rimettila. Quasi 4 punti ai sensali quando la metti come era prima. E adesso quanto è? Adesso come mi ha attaccato, sì, no? Sono staccato. Devi provare a liscio, devi metterla come era prima. Sì, sono staccato, non ho più attaccato niente. Ho cambiato il baracchino, sono con quello normale. Con quello normale sei un punto in più, con quell'altra sei quasi 4 punti in più. Vabbè, cazzo, l'ha attaccata la Marabanci. Quindi con quello là eri attaccato? Sì, sì, sì, sì. Adesso invece sei liscio? Sono liscio, come sempre. Ok, 9,15, va bene a te, va benissimo alla grande. Papà era 9,20, così è. Esatto, 9,20 abbondante. Ho migliorato, dai, più di questo non posso fare. Grazie a dottor Lucia, tu che vai benissimo alla grande. Più di questo no, non posso fare più di ghiaccio. Da qui vedi Massuccio, Porto d'Orra, vediamo come arrivo nelle altre zone. Ok, dai. Un attimo di piacere, devo dare una mano a Sara. Ok. Va bene, d'accordo, ok. Capito, Manuè, sono uscito già alle 8, poi sono rientrato, ho portato il cane, sono avuto la sci, adesso a mezzogiorno e mezza esco di nuovo, vado a vedere la partita, sino alle 2:15, poi me rientro a casa, boh, finito. E beh, cosa vuoi fare? Tanto, oh, adesso ti sei salvato da poco. Da poi entro le 10 devi essere in casa che per un coprifuoco, dimmi tu, quindi siamo andati a finire. Sì, bastava farlo dalle 18 il coprifuoco, non serve a niente farlo dalle 10. A chi tu, quando già arrivato, chiudo le attività, c'è tutta la gente in giro in mezzo alle balle, invece chiudere a casa dalle 6 di sera e vedi che a che cosa succede. Appunto, appunto, non serve a nulla, non serve proprio a nulla. Anche i supermercati adesso, in bar, la domenica. La domenica abbiamo fatto usare tutto, cosa avete da fare? Vai dillo al presidente della regione. Beh, è una pigliata per un culo, è una presa per il culo all'italiano. Vabbè, facciano quello che vogliono io tanto. Una giornata a lungo, né a mangiare né a cena. A Torino, hai più sentito? Ok. Sì, siamo sentiti anche stamattina su WhatsApp. E ieri, quando l'altro giorno è entrato anche in radio, però anche lui no, non è che mi ha già segato. Lui, ma non c'è più quella voglia di entrare in radio a parlare, a fare qualche chiacchiera, non c'è più nulla. Sì, la faccia c'era, ecco, sono rientrato, ho fatto una mano a Sara e sono rientrato, dai. No, soddisfatto la verità, ho guadagnato un po', perché era troppo bassa, troppo bassa. Ah, va bene, ce li hai tutti vicino intanto, l'unico più lontano sono io. non ce n'è problema. Ah, ricordo di Nafutti. Lui, lascia perdere. Ma dai. Vabbè, dai. No, sono contento, la verità, ma mi sono accorto comunque che le apparecchiature mi danno meno problemi. Anche poco fa, forse anche l'alternata un po' è andata via dell'altro apparecchio. Beh, ragiona meglio l'antenna, c'è più alta e va meglio. Capa, tu sei aumentato, cazzo pure attenuato, sei 9,15 attenuato, è una cosa paurosa. Vabbè, io lo faccio il test, sono in alto, poi adesso anch'io ho sollevato l'antenna, l'ho messa davvero in traliccio, quindi... Va bene, dai, continuate, io rimango in Corrix che sto facendo alcune cosette, se ci siete ci sentiamo dopo, ok? Buona domenica a tutti. A Cario l'interno è proprio con un pezzo di video, non un'antenna, un pezzo di video. Hai voluto io un altro aereo, quando cazzo come te la scelta. L'ho scelta quando c'erano le cooperative qua. Questo barazzone, gli dico io che ci piattiamo lì sopra. È un barazzone. No, mi posso lamentare tranquillissimo. Si andrà bene. No, sta già. Qua mi è arrivata sì forte, forte, forte. Anche tu hai aumentato parecchio, Manuele. Ma molto, Hai alzato la tela, è normale che c'è più recessione. Per una ranara, ha detto, beh, a fare un posto, va. Tanto, non me ne ha fatti nulla, lo faccio, basta. Perché io sono dentro un posto, insomma, capito? Ogni travaglio che ti tu qua. Oggi facciamo pure la cara, vai in oramara, vabbè che c'è cara, la devo lampare, adesso me ne compro un'altra. Tu dove sei? In Corso Trinità, o sbaglio? No, zona Corso Vico. Cazzo non è un fosso? Ma se tu la guardi, vabbè, io dico così, però non è proprio lì. Allora, se tu scendi largo Fermeria San Pietro, tu a confronto a Piazza Colonna Mariani, io sono dentro il posto, capito? Dove sei? Vicino alla pattuglia, sì. È presente la palestra. La palestra, ma quale palestra però? Quella che c'è scendendo da Piazza Colonna Mariana. E Dietro, che è un'altra via, non mi ricordo che cos'è, via sempre per me a San Pietro, a che cosa del genere. Che cazzo, non è un fosso, no, tu? Cazzo, non è un fosso. Io si ripiazza un'antenna quanti si deve, si va, e non mi arrucco. No, non è così, ti sto dicendo che se tu scendi io sono nel posto, sono nella discesa, sono a confronto agli altri palazzi, sei ruzzato sopra in Piazza Colonna Mariani. E oia. Non c'è un po' della discesa, lì se mi metto un'antenna buona con un palo come si deve, esci bene, non c'è un po' della discesa, sì, in un fosso o cosa. Però se mi metto una bella antenna e gli metto un bel palo, a uscire esci lo stesso come si deve. Cazzo tu non hai visto proprio gente in un fosso a velo, che era proprio in mezzo alla rocca. C'era un gioco, ya. Però... Non sono da quella parte là, se ho stato in Corso Vittorio Emanuele ho stato ancora meglio, perché lì è più in alto, dalla parte alta. Vabbè, però se ero stato nella parte del palazzo dove c'è Bruno, la pizzeria, da lì chi vi è riuscito voti, è molto più in alto. Vabbè, comunque, mettiti una cicottata, chi sa cosa è quella ringolina, io l'avevo presa, la ringo, nuova, ballata, tutto quanto, lavorata anche, regalata l'avevo, non l'avevo neanche usata, al cielo fa, e l'avevo presa lì a Milano, quando stavo ancora a Milano, poi avevo preso l'8-27 della Siria, una 50 anni, e c'aveva 5-6 variali aveva. Questa vabbè me l'hanno data, però quella che c'ha mio padre l'aveva presa da Fusaro, la LEM, Ringo LEM è originale. No, ma già va bene anche la Ringo già funziona bene lo stesso, solo che c'è un problema con le antenne lì che quando piove ti creavano lo stazionario, ci aumentavano le stazionarie. Sì, vabbè, a Sant'Arrangeli, parapari manichi c'è l'antenna, poi ho deciso, sempre antenna leggera, ho deciso di mettermi un'altra antenna. Più là, parapari manichiccia. Oh, ma l'ho provata, mica tanto stazionaria, la verità. Vabbè, io non so se è la stessa marcia, lo stesso modello, magari hanno cambiato il modello, io ti sto parlando di 30 anni fa quando l'avevo comprata e l'avevo messa come pioveva, umidità e tutto, ti aumentavano le stazionarie, tutto lì, però non so se è la stessa antenna come c'è tu. Sì, da 40 anni a questa parte non penso che l'abbiano cambiata. No, come cose ci andavano bene, come trasmissione e ricezione andavano benissimo. Tu come ricezione una bomba, cioè ricevo benissimo, ricevo. Magari io ci appena più bacio, però riesco a riceverti bene lo stesso. Ehi, andare. Comunque è sbagliato, deve essere a tu. Perché se no la notifica l'avrei ricevuta. E mandamelo. E come sei tu? Come fai tu di cosa? Io. Ehi, Antonio, mi chiamo. Guarda, da Pomponio ci sono. Sono io con la mia compagna. Dai, poi guardo, vediamo un po' di... Tu hai sbagliato, se no la notifica l'avrei vista. Non c'è nessuna notifica. Quando è che l'ha mandata questa cosa? L'altro giorno. Tu vai da Pomponio, mi vedi? È che non c'è il tuo numero di telefono, se no ti avvia chiamato. Beh, aspetta un attimo, guardo. Allora, vediamo un po'. Amici sono amici. Vediamo un po' la situazione. E chi è? Avanti. Avanti intengo più bene, intengo. Cos'è Aldo? Avanti intengo più bene. E che tu arrivi? Anche tu? Oh, chi ci gadi da baita baita. Forse ti arrivi tu. Sì, già lo so chi è. Avanti intengo più bene il segnale. E riesco a capire la voce. Aspetta un attimo. Ehi, Antu. Ehi, Natalino, ci sei? Ma non può parlare qua, Antu. Ah, ok, va. PMR, sì. Lo so. Ma un problema con un guglione, va. Cosa si può fare? Sei uscito Artù? Stavo andando sul 23 Artù. Vado sul 23? Sì, se c'è Gian Maria. Attento Antonello, Porto Torres. Dove è Antonello? Cosa? Antonello. Deve entrare, no? Ho detto Antonello deve entrare. Non lo so, eravamo su WhatsApp, ci siamo sentiti di notte. Non so, ma detto che ci saremmo sentiti stamattina, stavo chiamando. Là, ma per far abbassare le stazionarie di un altro pochino, il capo può entrare qualche volta. Tanto non ho capito, cosa hai detto? Ho detto per abbassare le stazionarie di un altro po'. Il capo può avere delle variazioni. Non la conosco quell'antenna, io Marco Condo devi chiedere, io di quelle antenne non la conosco. Io ho 30 anni che uso la mantova, non ne ho mai montato di quelle antenne. Sì, capo, le volevo abbassare di un altro pochino, magari 5 cm di capo per volta, magari potresti abbassarlo ancora di più. Chiedi a chi te l'ha data, non lo so, non la conosco ancora. Ti dico fesserie, capito? Ah, capo. la tengo così, ma vorrei apparare un altro bogaretto, vorrei apparare. La tengo così, ma già va bene, dai. Sai sì, quanto arrivo, Antonello, io? Ah? Arrivi. Così, come sono adesso, mi con 20 fatti, gli arrivo 9 più 20. Sì, vabbè, la posizione c'è. C'è lui anche però, posizione tra me e lui. 9 più 20, e lui mi arriva, quanto arrivi tu? Vabbè, io forse adesso gli arriverò 8-9, a punto d'ora, non lo so. No, ci arrivi 9. Non lo so. Vabbè, prova. Prova, Antonello c'ha un'ottima posizione. Antonello e Claudio Portoghese c'ha una posizione più alta di tutti. Lo dovrei provare, Claudio. Se non lo provo non ti posso dire, perché adesso con la modifica che ho fatto un po' di segnale l'ho guadagnato. Vabbè, l'ho guadagnato in città. Vediamo fuori. Non lo so, bisogna provare. Non lo provo, non posso dire se è meglio o peggio. Scusi, direi che qua sto parlando anche con mia moglie e mia figlia, cosa hai detto? Detto che se non lo provo non so se è meglio o peggio, non lo so. Ma di tu cosa che mi intendia nel ganare, mi intendia? Chi? Tu Maria. Tocca, mamma mia, ma quanto volte ti siete attaccati, è chiaro che vi splatterate, ti siete nei canali, siete tutti attaccati, cosa dico, però sei lì, io non ti sento ad esempio, anche c'è te col baracchino, non ti sento, a me l'unico che mi splattera due canali è Roberto e Antonello Pomponio, basta, gli altri non sento nessuno. No, non per quello, no, Clara. Dice che cosa non lo sentiva che era più vicino, come si chiama, Manuele. A me mi dice che mi sentiva sul 23. Vai, comprendi, nel dubbio. Cioè, Manuele è attaccato, Dici, cazzo, cosa hai fatto, il baracchino, vai pure. Da pure, cosa devi dire, non mi tocco, no. Sono molto, molto pignolo, non mi tocco io di radio. Vedi, è normale, magari regiona l'armonica leggermente sul 23, ma non è niente, che palle con queste cose, vabbè, fatti di, aspetta, tanto ci sentiamo dopo, faccio uno schivo a Antonello Vescentra, o sul Vignato. Ok, dai, fai. Io provo, Anto. Via, 1, 2, 3, prova. No, sì, più basso. Più basso? Sì, 9, poco, quasi 9, 10, sì. Come mai sei tutto quanto a scariche? Tutto a scariche, cioè? Controllati qualcosa, c'è qualcosa che non va. E quanto a posto? No, Lu, sei tutto... Ma che cazzo l'hai pigliato? Non lo so, Anto. Beh, controllo l'alimentatore. Controllo l'alimentatore, non si sa mai che ci sia qualcosa. Oh, l'alimentatore è a posto. Non lo so, Lu, c'è qualche cosa. Un po' di casino. Guarda, adesso un 3. Lo fa. Un bel fischio c'hai. Aspetta, qua adesso, 1, 2, 3. E leggermente già ce l'hai, ma è stazionari a posto sono. E a voi. 1-1. Ma in cappa. Quindi dici che io... No, è strano, eppure qualcuno mi ha detto che io ho aumentato. Non lo so, lo sono levata di un po', Da me sei 9-10, devo ti dica. Ma qua c'ho questo rumore? Prova con la portante fissa, mutata. Ora non c'è più. Aspetta, guarda adesso. Volte lo fa, volte no. Vabbè, fammi una registrazione, vediamo un po', voglio sentire questo rumore che fa. Massimino. Allora. passando un po'. Non capisco, guarda, tutto a posto. Ma no, adesso magari al primo momento può essere. Magari la ventola di questo alimentatore. Alimentatore di su, cazzo, poi ci sarà una passione VT, boh. No, no, adesso facciamo un'altra prova, va. Che bello, senti qua la vita mia, che bello. Lo sta scaldando, è giusto, va. Che dici fatto? Che cappa, hola. Adesso com'è? Adesso sei quasi sul più del più 30. Io greccio mio, quando attacco. E chi dà la ragione? Sì, perché stavo modulando con poca potenza, mi, capito? Già li guadagna di B, sì. Stavo ascoltando il video. Non lo so, anzo. Forse vai, ce l'ho alimentato troppo vicino, ma no, Si sente adesso la ventola, no, come è acceso, ma magari era un po' freddo, doveva cacciare un po' caretto. Oh yeah! Andiamo, andiamo, chiesa! Adesso arrivo a 9.30, va. E io che fare era con poca potenza, ero, non ero forte, forte, cioè non ero buon pen, dimmi. Ehi, oggi compresso. Ah, poco comprendi. No, già sta arrivando bene comunque, là. E con 4 watt quant'è? Fai 2, 3, prova. 9, 5. E così aumenta, così è. Al più arrivi. Kappa. Adesso dovrebbe avere anche meno problemi di alternata. Aspetta, mi sono di nuovo il coso, l'alimentatore, aspetta. Kappa. Ah, ragazzi, andando l'alimentatore. E pure io lo sto utilizzando, quello lì. No, è giusto, 13,8. Però mi sta lampeggiando un po' la lampadina del poco, del rosmetro. E mai? E che c'ha la lampadina quel rosmetro lì? Come? La lampadina quel rosmetro lì. Sì. Perfetto, c'è il cavo tuo suo anche. Perché gliel'ho messa io, così è nato. Ah, gabba. E perché sta lampeggiando questa lampadina? Non sarà umidità, no? Oh, so altro, buh. Stazionarie sono a zero. Sì, no, un attimo. Sì, prova. Sì, stazionarie non ne ho altro. Non dappo. Ah, ce li ho, 1 e 2, dai. Giusto per... 1 e 2 sono. Mi davano bene, va. A voglia. Amplificatore assalgono o no? C'è sempre lo stesso più o meno. Ah, buono, non è un amplificatore io qua. Un attimo, Luca, sto parlando al telefono. Sì, fai. Tanto qua dovrebbe entrare a pulire, anzi, ci sentiamo dopo magari. Segnale 9. Così 9.25, vabbè, devo provare con l'altro apparecchio pure per vedere un po' com'è la potenza, cioè com'è. Già pompa quel lineare, ho voglia. Per vedere un po' la situazione, dai. Avete potuto provare? manca solo l'antenna del PMR e sei a posto. Sì, questo è normale. 9.5. Normale 9.5. Sì, 9.5 sei con questo. Cazzo. Se prima arrivavo di più. Un fa con l'altro arrivava in 9.25 attaccato però. Liscio 9. Sono sempre stato così o ero più forte prima? No, con la liscio sei più forte con questo. Tanto arriva a 9 il segnale barattino. Se invece attacchi lineare a quello che stai usando adesso dovresti arrivare a 9.25 per forza. Ma non lo posso attaccare l'amplificatore. Allora, avanti, avanti, chieste. Facciamo il bravo. Ma le sto uscendo un po'. No, Luca, sta uscendo bene. Oh, perché le metto un po', facciamo un rumore. Prova, prova. Niente rumore, esce bene, perfetto. Anda bene. Andava bene, sì, perché con l'altro avevo dei problemi, con l'alimentatore del computer. No, forse pochi ampere, boh. Senza possibile. Beh, non puoi andare la cosa per i computer, quelli dei cinesi, 30 ampere, 20 ampere, 10, 10, 15 euro. Aspetti, mando una foto. Paola, e così è 9.25. Eia. Prima, quanto ti arrivavo io, normale? Sempre così o cambiava? No, ho capito una, sei detto è uscito tutto ta. Che mi diamo un buon pugno? No, oh, portate sotto c'hai. Adesso quando stavo mettendo la portante. A me l'importante stanno mettendo, oh belli be. Via. Senti voi che ta sotto, gli toccata. Siamo i bravi, Quello lo fanno per farti schiazzare, mica, tu. Se fai schiazzare, mica se vado in un posto, è che ho paura che ti ci scioglia tutti i nobbi. Se vado da, un amico mio, cioè, che me l'ha detto, vieni a prendertelo quando vuoi. Oiuia! Con la lingua già tranquillo, già non ti rimane in mano l'antenna. Se hai la B27 è meglio di no. Non ce l'hai WhatsApp, pompo? Ce l'ho, ma c'è un telefono che devo caricarlo di carta, ecco perché non accetta, capito? Lo riceverò senz'altro domani, adesso ce l'ho qua il telefono, solo che devo ricaricarlo, domani mattina vado a come si chiama e lo carico, all'edicola. Ehi no, Ali, ho paura, un bel di paura, cioè, frate, mi si voltero gabbano di morso. Se no l'avevo anche provato, ma ho un bel di paura, dico, regge 58 non regge, no. A meno che non abbi quello che c'ha il coso, quello diverso. Allora sì che regge. Ma chi c'è un bel di paura? Mi pare che più di 300 watt non anda. Sì, già tiene con l'antenna la lingua, capito? Già tiene 300 watt, non lo passi comunque, Luca, ti sento sotto ma non lo passi. Ma lui è agganciato però, comunque ti stavo dicendo, quando ti arrivo i segnali io a te, guarda un po'. Quasi 9, 6, 7, cioè 8 picchi positivi, quasi 9. Ho capito, andava là, vabbè, l'antenna è bassa. In terra, ciao Tino, buongiorno. Io spegnete i baracchini, sono entrato a far spegnere i baracchini a tutti. È sicuro? Da un buio però. Buongiorno. Sono il cassettino. Buongiorno, mi hai parlato della foto, sono sovralavorato, non si capisce niente. Chi c'è che non so neanche chi c'è? Ho detto buongiorno Tino, mi hai sentito? Io, Bombolo e Luca. Bene, ciao Antonello, ciao Bombolo, ciao Luca, riprendi Luca. Sì, ciao sì, buongiorno anche a te, buona domenica, gaffa. Ma sei aumentato anche qua Tino, C'è di tutto aumentato, gente, di segnale, ho alzato l'antenna. Bene, sì, tu sei 9.10 quasi, ma è un ottimo segnale, dai, va bene. Ma gaffa, ho aumentato, vero? Sì, anche tu, perché arrivo dalle 7 a 8, poi si è arrivato anche a 9 quando ha attaccato, però adesso non so se si è attaccato o meno, sei quasi 9:10. Bene, va, no, e prima non arrivavo così, attaccato ero 9, non di più. Avanti, vabbè. Compatte, compatte. Fa bomba. A me lo facciamo andare che sto gozzo, che lo uso poco, lo uso. Ehi, Anno Antonello. E allora, come va, come va? Evitato già si bagna anche a me. Allora, scusa lì, dai. Bisogna farlo bagnare, sennò è che cosa che non anda. No, bravo, sì. Qua la 25. Aspetta, vabbè. Per le condizioni che sei, diciamo che Antonio è appena più alto di te. Ma dai, sganciato però, è sicurissimo. Dì là a sganciare, Antonio. Beh, dai, ti accontento, proviamo, dai. Vabbè, ma so che lontano, so che burro da Edo. Ma io voglio andare a Nuderrasso, Antonio, tu che la saga Bissuria. Cosa entra? Prova, Antonio, ma sei staccato? Anto. Ne faranno. Vabbè, ti accontento subito. Com'è? Guarda, un po' com'è? No, sei più alto tu, Luca. Se io attacco qua è normale. Non attacco niente che non me la futti nuda, non voglio avere problemi con i vicini. Cazzo, me la giù, cioè me la giù di buca la luce, vuole niente, bambaracchino, ma non penso blu più. Vabbè, quanto è di più? Sarà poco di più, non di più. Allora, diciamo che hai un LED di distacco tra l'uno, ma tu vai in modulazione, lo stesso segnale di Luca, in modulazione però è importante fissa, invece no, sei un pochino più basso, sei 5 più basso. Che è più basso? Tu sei più basso di Luca, ti ho detto, in modulazione andate quasi allo stesso segnale, Luca invece è sempre stabile, hai capito? Allora, per andare bene qua, devo mettere una 5 ottavi e posso fare una grossa calata, invece con questa antenna qua, la volevo piazzare su, però c'è una grossa calata, non rende, capito? Cappa, bianco con me che sono venuti a trovarmi, ci sentiamo dopo, dai! Va bene, Cianto. Ma Luca, cosa intendi per una lunga calata? Giusto per capire il metraggio. Cazzo, sì, più di 30 metri, ma sei 40 pure. Ho 35 io. Ma tu c'è una 50 alberi come? Ho capito, io però ho 35 metri di capo, alcuni che sono in verticale, altri in orizzontale sotto al tetto e poi curve e curvette arrivo con la somma lì. Sì, ma stiamo parlando, se faccio una calata di 35 metri come ce l'hai tu, una 50 alberi ok ci sta, ma se faccio una calata di 40 metri, 35, ma fallo pure 30, avanza, falli 30, con una mezz'onda. Non va. Luca. Ehi, Afra, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno Luca, e anche a Tino, buongiorno. Luca, lascia stare tutto com'è, che arrivi quasi 9, e Antonio arriva a 5 qua. E allora, ciao Fra. No, vabbè, tanto non posso fare niente, Fra. Per il momento non posso fare niente, poi se deciderò, metterò una 58 sul tetto. La calata te lo permette, capito? Non è che posso pulire 100 metri di cavo, no, quello no. Però, insomma, con questa antenna qua non posso permettermi più di tanto, dai. Avanti, Pompù, per Franco. Ma Pompù se fa due lattine di birra. Beh, Fra, tutto a posto, sì. Ce n'è caldo a sorso. Sì, oggi è una bella giornata d'estate, bella, bella veramente. Sì, se metti una ciclotabile lì guadagni anche dei segnali, dei punti, guadagni. Ma anche con una mezz'onda stai arrivando molto bene, guarda che non è facile arrivare qua, perché stai arrivando al livello che sta arrivando Claudio. Allo stesso livello sei arrivato. Vuol dire che puntata verso, vabbè, già è puntata verso la parte tua, se la giù dall'altra parte tranquillo, non arrivare ti arriverò basso. È puntata verso il sorso, dai. Capo, va bene, lascia tutto com'è. Antonio arriva a 5 qua, arriva. Se attacca arriva a massimo 6, ma arriva, ma non di più. Avanti Tino, buongiorno. Buongiorno, Fra. Il più basso sono io, Fra, piccolo, basso e nero. hai corsa, vieni da Natura e da Corsa di Trani a dirti, che stiamo salvando dei piedi. E non mi ha detto che sotto gas. Ah vabbè, sono con 450, non è che... Comunque fra, tu sei 9-10 modulato da me, 9-10 modulato, tiro è quasi 9-20. Sto scendo con 10 watt, no, allora 10 watt quasi 20 modulato. Una bomba, bella radio, 5, bella, amplificata, di lusso, fai ottimamente bene. Io ho capito dove abiti, ci sono passato vicino a casa tua, ho visto l'antenna. So dove è il punto, dai. Più o meno quasi vicino a casa di mio fratello. Chiappa, tuo fratello è VB e più in giù di me. Siamo vicinissimi, siamo. Beh, scusate che mi devo lontanare. Va bene, Tino. Vieni da conta, pulisci bene quella che la piccola. Non è sempre fretta. Un attimino, vedo pronto un attimo e già torno subito. Me pompo farà così, sì. Potrei chiamare dal composto. Magari, così gli offro il caffè quando viene. Chi c'è Franco, lo senti da sorso. Ha voglia che lo sento. Ciao Fra, salutori. Ciao Antonio. Mino, sempre il gommino. Dai, mi sa che anch'io ne approfitto per farmi una risciacquata, Mino, là. Al cruscotto, sotto ruota, e poi pranziamo e poi andiamo in campagna, dai. Mi assento, a dopo. Ciao, ci sentiamo, e anche io ci finisco di farmi questo lavoretto che mi sto facendo, e mi ho fatto degli spezzoni più lunghi per arrivarci da un'altra parte, e basta. Niente. Ciao Luca, ciao, a più tardi. Sì, io già sono già tutto acceso qua, là, nel caso, se qualche passaggio dopo magari, prima di pranzare, va bene, a dopo. Ehi, fra, non un controllo, così, segnalo, radio. Radio Satura, è 9-20. Aspetta, hai ragione. Guarda un pochino, no, ho alzato troppo il pilotaggio del... niente, un po'. Sì, adesso ha migliorato la radio, sì, quasi 9-20, un pelino manca. Perché? Mi sta segnando un po' in negativo. Vedi un po' se è negativo. Qua c'è tutto positivo. Lo sai che me lo fa anche a me la 747? L'ho messo con 48 e mi dà negativo, mi dà. Non ho capito perché. No, ma questo non è il 747, è un altro. Vabbè, non sta dando quanto il 747. Quanto è vero che c'è da aumentare, guarda, non faccio il passaggio perché tanto la radio me la sporca, guarda. Ok, hai capito? Capo. Sì, però a te ti saranno tutto fatti da positivo, mi dà. Poi da te non lo so cosa ti saranno, se saranno negativo. Però io ho provato con 48, e 48 mi dà 4 watt, mi dà 4-5 watt, una cosa del genere. E mi dà tutto negativo, mi dà. No, a me la radio no, per dire la verità. Me lo commento invece che va oltre, vedi, adesso io ho aumentato un pochino di pilotaggio, poi mi dice se ha cambiato la radio anche, e niente, è tutto positivo tranne che nello strumento esterno. No, la radio da quando è schiacciato è sempre la stessa, ed è buonissimo, così va bene. Va bene, non so cosa dirti, perché io la vedo in negativo, capito? Capito, ho capito, no, qua è tutto positivo. L'ago della radio mi dà positivo. Bene, allora lasciamo così. C'è differenza da uno all'altro, vero? Di molto? Diciamo che. La tua modulazione, cioè la timbrica è sempre quello. Non vedo differenza, no? Io credo di sì, perché qua c'è qualcosa in più. è però la radio più piccola. Ma di potenza stai dicendo? Sì, sì, di potenza, di potenza. Ah, io pensavo che stavi dicendo del radio. Dai, di potenza è aumentato, è mania. Contro questa che è solo il batte suo, diciamo. Oh, così di potenza, sì, quello è aumentato abbastanza. Sono quasi 10 punti. Va bene allora. Chiaro. Va bene, sì, che vuoi continuare a fare questo lavoretto. Fai, fai, anch'io cosa devo fare qua in TCS, dopo, stavo, nel frattempo stavo, lo stavo accendendo che devo guardare le mail che mi interessano, quindi devo passare anche la radio. Va bene, beh, ti saluto, ciao caro. Ciao, ciao. Sì. Ciao a te, ci sentiamo. Ciao Antonetti, abbiamo rilanciato ma non c'è. E siamo andati a vedere se il puddu sta prendendo fuoco o meno nel fondo, capito? C'ho un fondo un bel strano, cioè. Fa tutta un'ora pure tarda, fa come il latte, quando non lo guardi sale. Va bene, ciao ciao. Antonè, chiude il forno, se no quello lì torna al volo. Dobbiamo farlo, no? Adesso appena mi arriva adesso di nuovo e me la piglia nuovo il forno. Di questo avevo il fido, che cucina con ben fretta, cucina, capito? Ehi, capo, va bene, dai. Ciao, Antonè. Ehi, ciao, ci sentiamo stasera al limite.